notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che messaggio vogliamo mandare alla parte nozzale di questa città? Ma vaffanculo! Vaffanculo Camorra, ecco, questo è il grido di speranza, di vittoria, di rivincita, chiamatelo come volete, del nuovo sindaco di centrosinistra di Casal di Principe, in provincia di Caserta, una delle terre difficilissime, affogate e fagocitate dalla Camorra. Renato Natale è lui. Ecco, con questo grido di ribellione, di coraggio e di speranza, vorrei iniziare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa settimana, questa puntata di Effetto Notte, che sarà per lo più imperniata sui risultati dei ballottaggi alle amministrative. Ci sono state varie sorprese, ne parleremo man mano, sentiremo anche dei sindaci in diretta, altri che sono stati ospiti in altre trasmissioni oggi. Allora, faremo proprio un po' un quadro, la geografia politica della giornata di oggi, e poi ci sono naturalmente sempre i canali per la vostra partecipazione, sia la pagina Facebook di Effetto Notte, se volete commentare in particolare alcuni risultati o fare altre osservazioni, e poi la pagina per gli sms, il numero per gli sms, che è 349 238 6666. Abbiamo tantissime cose da raccontare, devo sentire tanti di quegli ospiti, che direi di iniziare subito, prima di tutto come sempre, con un breve riassunto della giornata. Ballottaggi alle amministrative, il Movimento 5 Stelle vince a Livorno, Bari e Bergamo vanno al PD, il centrodestra conquista Perugia e Renzi commenta: non si vive più di rendita. All'Italia l'amministratore delegato del Torchio annuncia da Etihad 560 milioni e una ristrutturazione dolorosa con 2200 esuberi. Le baby prostitute di Roma, chiesti 16 anni per l'organizzatore degli incontri, 6 per la madre di una delle ragazzine. L'omicidio Politowska e a tutti condannati gli imputati che hanno causato la morte della giornalista, ma i figli attaccano, mancano i mandanti. Benzina, i sindacati confermano lo sciopero del prossimo 18 giugno e per il calcio, per i mondiali, gli azzurri si preparano per il debutto e Napolitano commenta: non ci dobbiamo accontentare. Partiamo quindi dai risultati dei ballottaggi per le amministrative. Il leader dei 5 Stelle Grillo festeggia sicuramente per aver espugnato soprattutto una roccaforte della sinistra come Livorno, poi sentiremo il sindaco, e mentre Renzi avverte: non si vive più di rendita. Vogliamo allora, vediamo qual è il quadro, la geografia politica, vi dicevo, e a seguire poi i commenti politici. Con i risultati della Sicilia, unica regione dove si è votato anche oggi, si completa il quadro delle amministrative. 8 i comuni dell'isola interessati dai ballottaggi. Nell'unico capoluogo di provincia, Caltanissetta, il nuovo sindaco è il candidato di centrosinistra Giovanni Ruvolo. Il Movimento 5 Stelle, con Patrizio Cinque, conquista invece la poltrona di primo cittadino di Bagheria, nel palermitano. A livello nazionale, fra primo e secondo turno, il centrosinistra vince in 164 comuni superiori ai 15.000 abitanti contro i 41 del centrodestra. Nei ballottaggi però il Partito Democratico perde due delle sue storiche roccaforti, Perugia, dove vince il candidato di Forza Italia, e soprattutto Livorno, dove a trionfare è invece il Movimento 5 Stelle. I democratici a loro volta strappano Pavia al centrodestra, mentre la Lega Nord si impone infine a Padova. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non esistono più le rendite elettorali, sarebbe questo il commento del premier Matteo Renzi ai suoi sulla tornata amministrativa. È finito il tempo in cui qualcuno sa che in quel posto si vince di sicuro, questo avrebbe detto il premier. Il quadro comunque resta straordinario, dello stesso parere anche Alessandra Moretti. Dove non siamo riusciti a segnare una discontinuità rispetto al passato e ad interpretare un'esigenza di cambiamento, abbiamo perso. Per Lorenzo Guerini, vice segretario PD, la vittoria è netta, il resto sono chiacchiere, i numeri non mentono, abbiamo conquistato 160 comuni sopra i 15.000 abitanti, 32 in più rispetto a prima, e siamo passati da 15 a 19 capoluoghi di provincia. In particolare abbiamo preso tutto il nord e in Lombardia governiamo dappertutto eccetto Varese. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Movimento 5 Stelle riparte dai ballottaggi e mette alle spalle le polemiche delle europee. I nostri sindaci, sempre di più virus inarrestabile, scrive allora Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook. Dimostreremo agli italiani che sappiamo governare, spiega Giuseppe Brescia, soddisfatto Carlo Sibiglia, sempre 5 Stelle. Livorno, che è un risultato storico, adesso anche Bagheria, io penso che i cittadini stanno comunque premiandoci in qualche modo. Luce d'ombre dai ballottaggi invece per il centrodestra. Bene la Lega a Padova, successo per Forza Italia a Perugia, male invece per i moderati a Pavia. Per noi esiste una questione settentrionale, ammette Giovanni Toti, Forza Italia. Hanno inciso certamente anche gli scandali Expo, scandalo Mose, che pure non coinvolgono solamente noi. O si cambia o il vecchio stufa, commenta dalla Lega Matteo Salvini. Guardare al futuro e non al passato, quindi basta sommatore di sigle, di mandare avanti anche persone nuove, volti nuovi e progetti di centrodestra. I risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative confermano la difficoltà complessiva del centrodestra, commenta la Russa, Fratelli d'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, avete sentito, questo in sintesi il quadro. Come commentereste questi risultati, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte in particolare, ma anche con i messaggi al 349-238-6666? Intanto, mentre fate le vostre riflessioni, cambiamo argomento e parliamo di Alitalia. L'amministratore delegato Gabriele Del Torchio ha comunicato oggi che ci sono delle conferme importanti sull'accordo tra la compagnia araba Etihad e Alitalia, ma ha anche annunciato una ristrutturazione che ha definito dolorosa. E la posta in gioco sono la sopravvivenza delle altre 11.000 passa persone che resteranno in Alitalia. Non è che abbiamo molte alternative. La crescita o l'accordo con Etihad è un accordo che ci permetterà di affrontare con maggiore serenità il futuro. Così l'amministratore delegato di Alitalia, Gabriele Del Torchio, ha giustificato i 2.200 esuberi strutturali previsti nell'accordo con Etihad, spiegando che non sarà possibile ricorrere a cassa integrazione a rotazione o solidarietà, ma si dovranno trovare opportuni meccanismi e forme di tutela. Il gruppo degli Emirati investirà 560 milioni di euro che serviranno a rafforzare la compagnia, ha detto il numero uno della società italiana, fiducioso di chiudere l'accordo nel giro di qualche settimana. Venerdì dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia infatti atteso il via libera al piano Etihad, mentre a breve è previsto un incontro tra i sindacati e i ministri Giuliano Poletti e Maurizio Lupi sul tema esuberi. Lupi intanto ha rassicurato il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni sul futuro di Malpensa, che per il governo resta l'unico scalo strategico del nord-ovest. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le dure parole del presidente di Confindustria Squinzi sugli imprenditori corrotti, pronunciate questa mattina a Milano all'assemblea di Assolombarda. Smettiamo di chiedere favori. Così Graziano Del Rio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dal palco dell'assemblea annuale di Assolombarda. Un richiamo all'etica nel momento degli scandali tangenti, dall'Expo al Mose, si mormora che la pratica non sia nuova. Oggi però pesa più di prima, soprattutto in un'ottica di credibilità internazionale. Il sottosegretario Del Rio spiega infatti come i recenti scandali ci siano costati la candidatura per i mondiali invernali a Cortina. Il numero uno di Confindustria, Giorgio Squinzi, richiama all'ordine. Noi lavoriamo nelle regole e le rispettiamo, e chi non lo fa deve stare fuori da casa nostra. Il presidente degli industriali ha poi parlato di ripartenza applaudendo all'immissione di liquidità della BCE. Ha chiesto inoltre il lancio degli eurobond e l'allentamento del patto di stabilità. Pochi minuti prima Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, dallo stesso palco ha sottolineato come il rispetto di quel patto tenga vincolati nelle casse dei comuni lombardi 8 miliardi di euro, sufficienti per azzerare l'IRAP dell'intera regione. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso spostiamoci all'estero con l'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya. Il tribunale di Mosca condanna tutti gli accusati nel terzo processo per quell'assassinio: ergastolo per il presunto killer Mahmudov e presunto organizzatore Gautakayev, carcere poi da 12 a 20 anni per gli altri tre imputati. Ma i figli della vittima, della giornalista, commentano: non saremo soddisfatti finché non si trova chi decise quel delitto, quindi i mandanti. E poi in Siria il presidente siriano Bashar al-Assad ha decretato un'amnistia generale. L'agenzia governativa siriana Sana precisa che l'amnistia riguarda tutti coloro giudicati colpevoli fino a oggi 9 giugno. Il provvedimento non si applicherebbe quindi agli arrestati senza un'incriminazione ufficiale e a coloro ancora in carcere senza processo. Si tratta questa della quinta amnistia decretata da Assad dallo scoppio del conflitto civile nel 2011. Torniamo con la cronaca sulle notizie italiane. Al caso Uva, il procuratore di Varese ha chiesto il proscioglimento per i carabinieri e i poliziotti accusati dell'omicidio preterintenzionale nei confronti di Giuseppe Uva, l'artigiano morto nel 2008 dopo essere stato portato in caserma dai carabinieri. Enza Lodo ha intervistato l'avvocato dei familiari di Uva, Fabio Anselmo. No, non me l'aspettavo proprio, perché solo 15 giorni fa il procuratore aveva aggiunto un'altra imputazione di percosse che sarebbe avvenuta all'interno dell'ospedale di Circo di Varese. Solo 15 giorni fa. poi improvvisamente abbiamo avuto, dobbiamo registrare questa diciamo così, questa inversione di rotta, penso che per noi è sbagliato. Il 30 faremo sentire la nostra voce. Secondo lei cosa può essere accaduto? Siamo sorpresi come lo sono stati gli stessi imputati, sorpresi. E ora la vicenda delle baby squillo di Roma. È attesa per il 1 luglio la sentenza sui giri di prostituzione minorile ai Parioli a Roma e oggi la procura ha chiesto più di 40 anni di carcere in totale per gli 8 imputati. Una pena così a volte è stata data pure in casi di omicidio e forse al di là dei calcoli sui singoli reati è anche l'innocenza di due minorenni ad essere stata ammazzata in quell'appartamento dei Parioli. 16 anni e mezzo di carcere in rito abbreviato ha chiesto la procura per il protettore delle due baby squillo romane, Mirko Ieni, l'uomo a cui sono contestati 13 capi di imputazione che gestiva il giro dei clienti delle due studentesse minorenni. Lui fissava gli appuntamenti, controllava la contabilità delle ragazze e con loro guadagnava anche 600 euro al giorno, come diceva lui stesso in un'intercettazione citata dal PM nella requisitoria. Richiesta di condanna anche per alcuni clienti, dai 5 anni sollecitati per Riccardo Sbarra agli 8 mesi, e sul banco degli imputati siede pure la mamma di una delle ragazzine accusata di sfruttamento della prostituzione per quei 100 euro al giorno che si faceva dare dalla figlia. Dall'altra parte siedono le due baby squillo, parti civili nel processo, insieme all'altra mamma che con la sua denuncia ha fatto scoprire le stanze chiuse di quell'appartamento dei Parioli dove moriva l'innocenza di due adolescenti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche di uno sciopero in vista adesso. I sindacati dei distributori di benzina confermano infatti lo sciopero proclamato per il 18 giugno e lo stop del self-service dal 14 al 17 del mese. Quindi state attenti questi giorni e quanto si apprende al termine dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, cui hanno partecipato le varie sigle che comunque riconoscono l'impegno del governo su questo tema. E per chiudere c'è la conferma ufficiale: il Milan ha comunicato di avere esonerato l'allenatore Clarence Seedorf, di aver affidato la prima squadra fino al 30 giugno 2016 a Filippo Inzaghi, che ha commentato oggi: Filippo Inzaghi, oggi per me è un giorno indimenticabile, darò tutto me stesso per questi colori. E per i mondiali poi ci colleghiamo direttamente con San Paolo, ma vale la pena di dire qual è stato il commento oggi di Napolitano. Il Presidente della Repubblica ha detto: non ci dobbiamo accontentare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, allora siete pronti con le vostre riflessioni sui risultati dei ballottaggi? Ci sono state diverse sorprese, no? Adesso ne parleremo. Prima di sentire alcuni sindaci e in particolare il nostro più lucido commentatore politico, vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono state le notizie principali di questa giornata. Naturalmente i ballottaggi col PD che regge ma perde alcune roccaforti. Renzi dice: tanto non ci sono più le rendite. E Grillo commenta: noi siamo un virus ormai inarrestabile. Forza Italia dice: senza Matteo niente vincite, vittorie per i democratici. E poi la ristrutturazione di Alitalia, che l'amministratore delegato del Torchio definisce dolorosa. Ci saranno 2200 esuberi, dice, che andranno via. Presto un accordo con la compagnia Etihad. Intanto i sindacati vanno all'attacco, dicono: sbaglia nel merito e nel metodo. Tutti condannati per l'omicidio della giornalista russa Politkovskaya, 2 ergastoli, ma i figli chiedono che vengano anche individuati i mandanti. La vicenda delle baby prostitute a Roma, il PM chiede 16 anni per Mirko Ieni, considerato criminale pericoloso, e poi 6 anni alla madre di una delle ragazzine. Per il calcio il Milan esonera Seedorf, addio in 147 caratteri, Inzaghi è ufficiale, ormai è lui il titolare, grazie a Berlusconi, dice, darò tutto. E pensate che per Seedorf il Milan gli dovrà pagare 2 milioni e mezzo di euro netti per le prossime 2 stagioni, e poi invece circa 700.000 euro all'anno è il compenso di Inzaghi. Adesso passiamo a cose più prosaiche, con la politica, con l'editorialista del Sole 24 Ore, con il notista politico Stefano Folli. Ciao Stefano. Ciao Roberta. Allora, abbiamo visto in sintesi un po' quali sono i risultati di questo ballottaggio, con diverse sorprese. Sicuramente PD ci sarà rimasto non poco male di, per quanto riguarda Livorno, no? In particolare, che è andato al Movimento 5 Stelle, poi dovremo sentire dopo il sindaco Nogarin. E poi cosa abbiamo di altre grosse novità? Perugia e Potenza che sfuggono al PD e vanno al centrodestra, Pavia, anzi Padova che va alla Lega, e poi anche Pavia che Flavio Cattaneo, considerato anche da tante classifiche del Sole 24 Ore in questi anni, è considerato il sindaco più amato, no? Eppure non è stato riconfermato. Non è stato confermato. Beh, sono risultati che hanno disegnato una mappa piuttosto frastagliata delle amministrazioni italiane, dei comuni italiani, a dimostrazione appunto che ormai non ci sono più appartenenze chiare, non c'è più un voto consolidato. Il voto si muove a seconda degli stati d'animo, delle frustrazioni dell'elettorato. In questo caso non c'era un elemento a fare da spinta, un elemento forte come è stato per le europee, dove c'è stato l'effetto Renzi. Queste amministrative non ci poteva essere, perché è un voto locale che si decide più che sui partiti, sulle persone, soprattutto nei ballottaggi che sono sempre un po' un terno al lotto. Quindi la polemica del centrodestra sul mancato effetto Renzi si capisce dal punto di vista appunto della propaganda politica, della polemica, però non ha secondo me molta ragione d'essere, non ci poteva essere un effetto Renzi. Così come non c'è stato un vero effetto Grillo, perché la vittoria di Livorno è arrivata abbastanza inaspettata, Grillo non aveva fatto campagna elettorale, questo sindaco Nogarin ha fatto capire di voler essere soprattutto il sindaco della città di Livorno e non certo un emissario di Beppe Grillo. Sì. Un po' come è capitato a Pizzarotti a Parma. Ecco, quindi insomma ci sono delle circostanze molto particolari che disegnano una nuova Italia dei comuni amministrati, e insomma in effetti politicamente però c'è molto da riflettere su questo voto così movimentato. Infatti poi cominceremo a fare un po' di riflessioni su quello che hanno detto dal PD, invece i commenti del centrodestra e così via, però ti farei sentire l'ascoltatrice e gli ascoltatori anche alcune dichiarazioni in sintesi, per esempio quella del neosindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è stato anche spin doctor, insomma l'ispiratore della comunicazione di Renzi più o meno all'inizio, no, della sua campagna anche per le primarie, è stato altissimo dirigente di Mediaset, poi produttore Giorgio Gori, adesso è sceso, come ancora si dice, se ancora si dice così in politica, ed è diventato sindaco a Bergamo. Sentiamo oggi, era a effetto giorno, intervistato da Simone Spezia. Cominciamo a ragionare sulla squadra, che mi sembra la cosa più urgente e decisiva poi per i risultati dei prossimi anni. Abbiamo tenuto un po' in parte la riflessione sulla composizione della giunta proprio per avere la serenità di finire la campagna elettorale nel modo migliore. È andata bene, adesso da oggi ci mettiamo a riflettere, ma brevemente, perché mi piacerebbe poter arrivare a battezzare la nuova giunta nel giro di qualche giorno. Solamente politici, o ha intenzione di pescare dalla famosa cosiddetta e ultra celebrata società civile? Anche dalla società civile, pur notando che già dentro le liste c'erano alcune liste civiche che sostenevano la mia candidatura, tra queste c'erano molte espressioni di società civile, quindi di persone non abituate alla frequentazione della politica normalmente, quindi già ce n'è un pezzo, però secondo me nella giunta si può aggiungere qualcuno. Questo è Giorgio Gori, appunto, sindaco, neosindaco di Bergamo, Stefano Folli. E per quanto riguarda il centro-sinistra, che abbiamo detto insomma continua ad andare piuttosto forte, ma ha perso alcuni fortini suoi, abbiamo detto in prima istanza proprio Livorno. Però per esempio la vice segretaria del PD, Deborah Serracchiani, ha detto: questi ballottaggi rappresentano una vittoria limpida e indiscutibile che conferma e consolida l'avanzata del PD alle europee e alle recenti regionali. E poi dice: poi ci sono certo alcuni casi, sono stati oggettivamente deludenti, li analizzeremo singolarmente. E dice ancora: un caso a parte mi sembra quello del Movimento 5 Stelle, che a livello nazionale è al 20%, che poi conquista un unico capoluogo grazie al Soccorso Azzurro, secondo la Serracchiani, Livorno. Quindi ma insomma io penso che il Partito Democratico adesso debba guardarsi dal pericolo di una rissa interna tra esponenti del vecchio partito e del nuovo partito renziano, no? Quindi in cui i renziani sostanzialmente imputano alla vecchia guardia, partito, no? Alla vecchia guardia di essere stati loro i responsabili della perdita di alcune città. E questo è un rischio che secondo me c'è, ma sarebbe abbastanza deleterio. Quando Renzi parla di una rendita di posizione che non esiste più, dice una cosa vera, ma penso che non intenda aizzare questa rissa interna. Forse è più probabile pensare che si risolva il problema con un rinnovamento dei quadri che possa avvenire nell'arco di un anno o due, senza dar luogo a ulteriori tensioni intestine. Stavo guardando alcuni messaggi, per esempio Max da Udine dice: Renzi ha detto niente rendite, ma parlava anche del suo partito per Livorno e Perugia, chiaramente parlava in particolare dove hanno perso. Poi Mauro da Cesena: al di là del colore, tanti sindaci uscenti hanno perso tra tasse e tagli, oggi amministrare non paga, se si accontenta uno si incazzano altri due. Così sintetizza Mauro. Questo è un po' vero, moltissimi sindaci, pochissimi sono stati riconfermati, mi pare 4, e quindi effettivamente hanno pagato il prezzo del malessere economico. E poi stavo guardando invece il centrodestra, ha fatto un po' di critica per esempio con Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, ha detto: questo centrodestra di lotta e di governo non va da nessuna parte ed è destinato a sgretolarsi in mille pezzi. Uno dei partiti che potrebbe comporlo, dice, il nuovo centrodestra, uscito azzoppato dall'Europea in maggioranza col segretario del PD e conta come il due di picche. Poi dice un altro: è Forza Italia, è all'opposizione il lunedì e tratta sui tavoli oscuri il martedì. E poi dice: noi di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e la Lega Nord rimaniamo da soli coerentemente all'opposizione. Dice praticamente il centrodestra è sgretolato, e questo è un problema di cui alla fine si parla da tempo, sì, no? Sì, certo. Penso che il centrodestra ha maggior ragione dopo questo voto, che peraltro non è stato così devastante, perché hanno qualche comune l'hanno salvato, uno Padova è importante, l'hanno conquistato con la Lega. In effetti però il discorso che viene fatto ha un senso, la linea del centrodestra deve essere tutta ridefinita, deve essere rifondato questo movimento, riuscire a mettere insieme i Fratelli d'Italia, l'NCD di Alfano, la Lega, richiede una sorta di costituente, richiede uno sforzo di cui non si vede nemmeno traccia, se non diciamo sul piano retorico. Berlusconi ogni tanto parla, no, di riunire i moderati, ma detto così è un discorso che non porta lontano, e anzi ci sono nuove difficoltà. Insomma, la mancata conferma del sindaco di Pavia che dicevi prima, Cattaneo, sì, sì, è un segno che il rinnovamento da quella parte sarà più difficile del prevedibile, visto che è considerato che Cattaneo era giudicato una sorta di Renzi di centrodestra, no? Era un personaggio molto mediatico, molto accattivante, e quindi c'è davvero una rifondazione da compiere, e richiederà più tempo di quanto possa richiedere, io credo, il rinnovamento del Partito Democratico di Renzi. Senti Stefano, prima di lasciarti, allora citavi prima il caso di Padova, che appunto dopo diversi anni, dopo Zeronato eccetera, è passato alla Lega, c'è stata la vittoria di Massimo Bitonci, e allora lo sentiamo brevemente intervistato da Marisa Labanca. In realtà qua a Padova è successo anche un laboratorio forse diverso da cui ripartire anche come centrodestra a livello nazionale, perché la mia lista civica al primo turno ha raccolto il 18% dei consensi, che è diventato il secondo movimento partito della città, quindi una cosa abbastanza incredibile, e in realtà un po' tutti i partiti hanno raccolto molto meno, quindi c'è una voglia della gente di un'amministrazione, di sindaci che siano più civici e meno legati ai partiti. Quindi ora che ha vinto le elezioni, che ne sarà dell'alleanza con le altre bandiere del centrodestra? Riuscirete a lavorare insieme? Abbiamo fatto campagna elettorale insieme, continueremo a lavorare insieme, però l'amministrazione è cosa diversa rispetto alla politica nazionale. Affronteremo i temi della città, i temi della sicurezza che sono molto importanti a Padova, però i partiti non entreranno in giunta, nel senso che non prenderò direttive da parte di nessun partito. insomma, i sindaci, come dicevi tu, sono un po' a parte, vogliono fare almeno così nelle intenzioni indipendenti, no? Stefano? Sì. Sì, mi sembra che l'autonomia dei sindaci riesce rafforzata da questo voto, mentre la capacità dei partiti, tutti i partiti, di diciamo mantenere il loro controllo del territorio esce indebolita. Detto questo, è chiaro che il Partito Democratico ha conquistato una serie di comuni molto importanti, quindi si può pure vantare la sua vittoria. Però non c'è dubbio che ci sia parecchio da fare, parecchio da riflettere proprio sul carattere frastagliato di questo voto. Grazie Stefano Folli, a presto. Ciao, ciao. Ciao Stefano, buon lavoro. Abbiamo raggiunto adesso, c'è Antonio De Caro, neosindaco di Bari. Buonasera De Caro. Buonasera, buonasera a voi. Allora, diciamo che Bari ormai, quanti anni sono che è al centro-sinistra? Poi c'è stata questa scia considerata virtuosa di Emiliano, no, sindaco De Caro? Sì, sono passati 10 anni, io ho avuto la fortuna, l'onore di fare anche l'assessore con la prima giunta Emiliano, ero un assessore tecnico, poi ho fatto altro, ho fatto il consigliere regionale da un anno, ho avuto l'onore di rappresentare la mia città in Parlamento, sono tornato per fare il sindaco di Bari, che sì, mi dicono è il mestiere più bello del mondo, fare il sindaco della propria città. Per me è stata già un'esperienza esaltante sotto il profilo umano fare la campagna elettorale per fare il sindaco della mia città, è una esperienza che non dimenticherò mai. Bene, questa è una grande soddisfazione immagino per lei, però dice il senatore PD Nicola Latorre, con la vittoria di De Caro questa vittoria riapre la primavera pugliese. Come può proseguire questa, anche se stiamo andando in estate, De Caro, questa primavera pugliese? Ho detto più volte che è finita la primavera, adesso inizia l'estate. A me è stata data un'opportunità 10 anni fa di fare l'assessore tecnico, sono tornato a Bari anche perché ho sentito la responsabilità di far crescere una nuova classe dirigente che farò crescere, l'ho già fatta con il Consiglio Comunale rinnovando le liste, in particolare del Partito Democratico. Tante persone hanno fatto un passo indietro per far fare 2 passi avanti a dei giovani che avevamo candidato nelle circoscrizioni, nei municipi, adesso sono in Consiglio Comunale. C'è stata quella che il presidente Vendola ha chiamato una rottamazione gentile, nel senso che non abbiamo rottamato nessuno, siamo stati accompagnati, ecco, in questa fase di rinnovamento. Adesso costituirò una giunta dove ci sarà anche un ricambio generazionale. Devo dare la stessa opportunità che è stata data a me 10 anni fa, io devo darla a una nuova classe dirigente. Bene, che è un po' la parola d'ordine questa, insomma, del ricambio generazionale ultimamente. De Caro, dica una cosa, a parte raccogliere l'eredità quindi di Emiliano, adesso di cosa ha bisogno Bari, cosa intende fare lei per Bari? Beh, io ho fatto un programma concreto, faccio l'ingegnere nella vita e ho cercato di dare degli obiettivi, dei tempi di realizzazione, dei costi e forse per la prima volta in una campagna elettorale anche delle fonti di finanziamento. Credo di essere stato anche abbastanza noioso, però credo che i cittadini vogliano oggi concretezza, vogliono un sindaco che gli risolva i problemi, non hanno bisogno più di parole, anche sulla scia di quello che sta avvenendo a livello nazionale, hanno bisogno di avere una speranza, ecco, e attraverso la concretezza degli atti concreti da fare in pochi giorni. Io ho individuato 10 cose da fare nei primi 100 giorni. Mi dica due. Il reddito minimo di cittadinanza per le famiglie che hanno maggiore disagio, sono 400 euro al mese per 400 famiglie, sono 2 milioni di euro che prenderò dal piano sociale di zona e non sarà assistenzialismo, daranno in cambio delle ore di lavoro, poche ore da mettere nella banca dei piccoli mestieri, quindi non so, accompagneranno i bambini ad attraversare le strisce pedonali davanti alle scuole, ci daranno una mano a fare piccole manutenzioni dei giardini e ci aiuteranno magari a tenere aperte le chiese e i musei che all'ora di pranzo sono chiusi, che è l'orario in cui arrivano i crocieristi nella mia città. Quindi su queste cose allora ci aggiorniamo, Antonio De Caro, va bene? Io le auguro buon lavoro, buon principio anzi, e poi le auguro di concretizzare già anche solo questo primo punto che mi sembra importante. Grazie sindaco De Caro. Grazie, buona serata. Grazie. Adesso noi ci prendiamo una pausa di riflessione, avete materiale su cui riflettere e commentare. Se volete, pagina Facebook di Effetto Notte o i messaggi al 349-238-6666. Vedo un altro messaggio, per esempio, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, il Movimento 5 Stelle vince a Bagheria, sì, anche in Sicilia, terra di mafia, forse può cambiare, forse cambiare, dice, si può. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, grazie ai vostri messaggi, in particolare a Claudio da Roma 61, Beatrice e agli altri che stanno scrivendo. Sergio Gigli sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: ma come posso esultare quando più del 50% non va a votare? È vero, questo sì, c'è stata anche una grande astensione, però noi intanto commentiamo i risultati, l'astensione non è mai positiva naturalmente. Però prima vi racconto i titoli, se avete acceso la radio in questo momento vi ricordo che Effetto Notte inizia alle 21 e poi sentiremo un altro sindaco. Allora, naturalmente i ballottaggi alle amministrative, il Movimento 5 Stelle vince a Livorno, Bari e Bergamo vanno al PD, il centrodestra conquista Perugia e Renzi intanto commenta: non si vive più di rendita. Per l'Alitalia una ristrutturazione dolorosa, annuncia l'amministratore delegato del Torchio e conferma che Etihad ci metterà 560 milioni. Le baby prostitute di Roma, chiesti 16 anni per l'organizzatore degli incontri, 6 invece per la madre di una delle ragazzine. E poi c'è l'omicidio Politkovskaja e a tutti condannati gli imputati per l'assassinio della giornalista russa, ma i figli attaccano, mancano i mandanti. I benzinai confermano, i sindacati dei benzinai confermano lo sciopero del 18 giugno e per quanto riguarda il calcio ormai è ufficialmente Inzaghi il tecnico del Milan e per i mondiali poi ci collegheremo direttamente con San Paolo do Brasil. Ma intanto parliamo con un altro sindaco, anche lui è il momento degli ingegneri, un ingegnere aerospaziale di 44 anni che ha conquistato la rossa Livorno. Sindaco, neosindaco Filippo Nogarin, buonasera. Buonasera. Insomma, sindaco a tutti gli effetti, perché bisogna dire è stato uno dei colpi, se no anzi il principale del Movimento 5 Stelle in Italia in queste amministrative, no? Sì, direi che è stato sicuramente un punto importante insieme a Civitavecchia e a Bagheria. Lei come se lo spiega questo successo? È chiaro che lo devo chiedere prima di tutto a lei, poi evidentemente gli elettori hanno avuto fiducia, hanno voluto cambiare. Mi dica lei che qual è stata secondo lei qual è stato l'elemento vincente? Ci sono state una serie di componenti che hanno prodotto questo risultato. La prima è sicuramente un demerito del Partito Democratico, che ha fatto sul territorio un pessimo lavoro durato molti anni e che ha prodotto una situazione di questo territorio che è veramente disastrosa, con una disoccupazione che è il doppio rispetto al resto della Toscana. Il secondo punto è sicuramente a nostro favore, cioè quello di aver fatto sul territorio una politica legata ad interrogare la cittadinanza, a comprendere bene e interpretare anche molto attentamente di quale bisogno la città di Livorno abbia la necessità di interpretare per poter uscire al meglio da questa situazione di crisi, che è veramente estremamente complessa. Dall'altra, l'ultimo punto è una concomitanza di presenza sul territorio di altre realtà, quali ad esempio altre liste civiche, che in qualche modo hanno contribuito nel primo turno ad erodere una parte dell'elettorato della sinistra, che normalmente è appannaggio del Partito Democratico. E quindi questo ha prodotto il risultato di aver portato storicamente il PD al ballottaggio e poi averlo battuto al ballottaggio semplicemente con dei punti di programma. Ma sindaco Nogarin, quindi questi secondo lei appunto sono i motivi? Qualcuno dice anche qua all'interno del PD è perché diciamo il centrodestra un po' ha aiutato indirizzando verso Nogarin piuttosto che verso il candidato di centrosinistra? È possibile? Ma è che il PD dica una cosa del genere è abbastanza normale, ma in realtà noi non abbiamo avuto un endorsement da parte di tutto il centrodestra livornese. Al contrario, noi abbiamo rivolto l'appello apertamente alla cittadinanza livornese e attorno a questa cittadinanza abbiamo trovato una convergenza proprio attorno a quei punti di programma che le dicevo prima, cioè la convergenza è stata totale e completamente trasversale rispetto alle forze politiche che in qualche modo si sono proposte a questa tornata elettorale su alcuni punti addirittura ci siamo trovati con 10 candidati sindaco contro l'unico del PD, tutti d'accordo, e quindi va da sé che con una convergenza di questo tipo è chiaro che il Partito Democratico può anche tentare di cercare di mettere l'attenzione su quello che può essere stato la volontà di alcune destre di dare il proprio endorsement verso di noi, ma altrettanto è successo con tutta quella grossa porzione di sinistra che invece non ha volutamente appoggiato il Partito Democratico per dare un'indicazione di voto verso di noi. Però questo la dice lunga sull'atteggiamento del Partito Democratico, perché si tende a porre l'attenzione su quello che è stato una piccola indicazione di un elettorato minimo di destra per in qualche modo taggarci di destra, ma la stessa identica cosa non viene detta di una porzione, cioè la terza forza politica che in questo momento insiste sul territorio con il 16% delle preferenze, e però non si dice la stessa cosa sulla sinistra. Sindaco Nogarin, quindi è riuscito a espugnare questa incredibile roccaforte della sinistra, roccaforte rossa, e quindi che cosa parlava del problema della disoccupazione, che diceva è più alta percentualmente delle altre parti dell'Italia, ma quindi come intende affrontare i primi problemi, che cosa farà tra le priorità, che cosa c'è? Ma noi cercheremo di dare un immediato respiro al commercio, nell'immediato. Stiamo pensando come primo atto di cercare di ridurre ad esempio le aliquote per il suolo pubblico durante tutto il periodo estivo a livello sperimentale, per vedere di dare veramente una boccata di ossigeno ad esempio a tutti quei locali che permettano l'innesco di un ciclo virtuoso che vede nella vita del centro cittadino la possibilità di una prima soluzione. Chiaro, non sarà questa la soluzione, però è che sono piccoli interventi immediati che cercheremo di apportare. Stiamo al contempo anche valutando il piano industriale di un investitore che sta cercando di rimettere mano a quello che è il mondo delle riparazioni navali, e quindi anche relativamente al porto siamo interessati a raggiungere un primo obiettivo affinché l'occupazione sia al primo punto del nostro timeline. Il fatto che lei sia un ingegnere, questo aiuterà questa competenza in qualcosa in particolare per risollevare un po' le sorti di Livorno? Ma può darsi, però credo che lei ha fatto una cosa importante per l'Enel, no? Mi sembra di ricordare. Sì, io ho progettato, sono stato tra il team di progetto del primo generatore eolico, un mini wind di 18 kW, 20 kW per l'Enel, è stata la mia tesi di laurea. Comunque non credo che il fatto che io sia ingegnere costituirà un plus rispetto a quello che sarà il mio atteggiamento da sindaco. Credo che potrò però avere questo mio atteggiamento pragmatico legato alla capacità di fare sintesi, ecco, questo magari mi permetterà di avere visione e di poter in qualche modo dare indicazioni, ma per il resto non credo che dovrò essere in prima persona a seguire direttamente le singole scelte, saranno poi gli assessori a doverlo fare. Certo, adesso dovrà formare la sua squadra. Allora, Filippo Nogarin, naturalmente non si può che augurarle buon lavoro, e ci aggiorniamo allora tra qualche tempo per vedere come vanno le cose. Va bene? Grazie mille. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso, subito, velocemente, in pochi secondi, anzi titoli, ve li ricordo, abbiamo già ancora tante cose, il PD che regge in questo ballottaggio ma perde le roccaforti, Renzi dice non ci sono più posizioni di rendita, Grillo commenta noi un virus inarrestabile, Forza Italia dice senza Matteo niente vittorie per i Dem, anche se in realtà tengono. Ristrutturazione dolorosa per Alitalia, 2200 gli esuberi che andranno via, così dice l'amministratore del Torchio, e poi tutti condannati per l'omicidio Politkovskaja, la giornalista russa, 2 due ergastoli, ma i figli chiedono anche che si individuino i mandanti. E poi per il calcio l'ufficiale Seedorf viene esonerato e viene ingaggiato invece Inzaghi, che è il tecnico ormai ufficiale. Ma adesso invece ci occupiamo di Europa, di un progetto particolare, La luce dove non c'è. Si chiama Celux, è una sorta di finestra tecnologica che ricrea in ambienti chiusi la luce naturale, una tecnologia innovativa disponibile sul mercato a fine 2014, frutto di una ricerca decennale finanziata dai fondi dell'Unione Europea nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca e sviluppo, e selezionato dalla Commissione Europea tra le 12 tecnologie innovative presentate alla Innovation Convention nel marzo 2014 a Bruxelles. A coordinare questo progetto è un italiano, il professor Paolo Di Trapani, docente di fisica presso il Dipartimento di Scienze ad Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria a Como. L'ha sentito Alessandra Schepisi. Europa 24 notte. L'attività di ricerca è cominciata nel 2002, quindi sono già più di 10 anni. Ci sono state una serie di progetti finanziati dall'università, dagli enti locali, dalla comunità europea e più recentemente anche da investitori privati. Quindi non è solo un progetto, ma è un'azienda, una start-up, che è uno spin-off accademico dell'Università dell'Insubria, che ha sviluppato delle tecnologie che oggi sono sul mercato. In cosa consistono queste tecnologie? La tecnologia è un sistema ottico che è in grado di riprodurre la presenza del cielo e del sole indoor. Quindi è in grado di riprodurre la luce che il cielo e il sole fanno quando entrano in una stanza da una finestra, quindi l'illuminazione caratterizzata dal fatto che la luce diretta del sole illumina gli oggetti, disegna le ombre e il cielo colora queste ombre stesse di azzurro, ma anche di riprodurre l'immagine che lei vede guardando una finestra in modo molto realistico di un cielo blu e luminoso con un sole splendente. E non da ultimo produce l'esperienza di spazio infinito che lei vive stando davanti a una finestra, decine di chilometri tra lei e l'atmosfera e milioni di chilometri tra lei e il sole. Quali sono i vantaggi? E noi siamo nati nel nostro DNA nel nord dell'Africa, quindi noi siamo abituati, cioè la nostra struttura, il nostro corpo è fatto per lo spazio, per la luce. Vivere indoor è una sofferenza, consapevole o inconsapevole, proprio per la mancanza di spazio e per una illuminazione che non è assolutamente quella che l'uomo come natura fisica e biologica è abituato. Quindi il comfort, la capacità di stare bene, che è tipica dell'essere all'aperto, viene resa possibile anche indoor. Non solo, cioè la capacità di riprodurre la luce naturale come fosse un'opera d'arte, ridesta l'attenzione delle persone a guardare fuori, ad apprezzare, a godere della luce nell'outdoor. Questo progetto ha necessitato di un investimento piuttosto sostanzioso da parte dell'Unione Europea, anzi non sarebbe stato possibile senza questi fondi europei. Certamente, infatti la cosa tutto sommato molto bella è che è un'idea che nasce in un ambito universitario, quindi senza capitali e senza disponibilità di tecnologie, grazie ai finanziamenti della comunità europea ha potuto crescere acquisendo risorse, sviluppo, ricerca anche da enti a livello internazionale, ma che, in modo tale che tutti i risultati sono confluiti, come previsto dai progetti stessi, all'interno di un'azienda che quindi può essere veramente concepita come una start-up, dove la molla è stata data da una finanza resa possibile dalla comunità europea. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dopo l'Europa torniamo sui ballottaggi, 2 minuti con il neo sindaco di Potenza Dario De Luca. Buonasera De Luca. Buonasera, buonasera a voi. Un successo inaspettato, questa è stata una delle sorprese di questi ballottaggi, un successo clamoroso dopo che mai Potenza è stata in mano al centrodestra, sempre stata in centro-sinistra e così in buona parte anche della Basilicata, insomma. Quindi Dario De Luca, lei è sostenuto dai popolari, dei popolari per l'Italia, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e da una lista civica. Un suo commento così su questa sua vittoria inaspettata? Guardi, è inaspettata perché il divario che mi divideva dal candidato sindaco del centro-sinistra era molto alto, perché io ero intorno al 16-17, lui intorno al 47-48. E sapevo che le cose al ballottaggio sarebbero andate molto meglio per me, ma non conoscevo l'entità di questa variazione che ci sarebbe stata. E invece al ballottaggio sono stato premiato ribaltando integralmente il risultato e giungendo al 58-50%. Mi dica, Dario De Luca, anche se so che lei ha una situazione particolare perché ha un consiglio comunale in maggioranza in centrosinistra, quindi dovrà capire bene come fare, ma come cambierà con lei Potenza? Me lo dica in una battuta. Guardi, cambierà perché io intendo portare Potenza, dopo un ventennio di un'amministrazione che l'ha ridotta in condizioni pessime, la voglio portare innanzitutto a una sana normalità mediante una corretta manutenzione dei luoghi pubblici, delle strade, delle vie, delle piazze e mediante una accorta riprogrammazione dell'intero sistema dei trasporti pubblici e dell'intero sistema della raccolta dei rifiuti differenziata. E allora buon lavoro anche a lei, sindaco Dario De Luca. Grazie. Ci saluti Potenza. Apriamo gli orizzonti al Brasile direttamente dai nostri ballottaggi comunali. Ciao Dario Ricci. Ciao, ma abbiamo pure una sigaretta dal Brasile. Hai bella. Sentito, apposta per te, grazie, Dario. Senti, grazie. Prandelli ha detto che c'è benzina per arrivare fino in fondo. Tu non so con la tua macchinetta, ce l'hai ancora un po' di benzina che stai girando da San Paolo a Rio, eccetera, eccetera. Sì. No, un po' di benzina io ancora ce l'ho, però vivo con apprensione il momento in cui devo rifare il pieno, perché qua in Brasile ci sono diversi tipi di carburanti e quindi l'ho programmato con un circuito sul calendario il pieno e sto studiando proprio il momento. Quindi non sarà un'operazione banale, però c'è ancora. C'è. Bene, bene. Poi c'è Napolitano, non so se hai sentito che oggi ha detto non ci dobbiamo accontentare, che lo sappia Prandelli, non è che si può tornare a casa. No, Prandelli, ma l'abbiamo già detto anche, che Prandelli ha risposto e ha detto ben venga al suggerimento di uno degli uomini più saggi che abbiamo in Italia, ha pienamente ragione, ma seguirlo è bello questo afflato per andare oltre i propri limiti e non accontentarci, no? Anzi, oggi il Prandelli proprio fatto professione di ottimismo in questo senso e quindi affidiamoci al CT. Senti, mettiamoci un po', capiamo anche quali sono, diciamo, il clima, le atmosfere anche da noi in vista di questi mondiali. Per esempio, Checco Zalone, senti che ispirazione ha avuto. Ehi, a te, tifoso razzista, io capisco tu che uomo bianco non è come un nero, sotto la doccia ti dico vero, e allora sfruttimi come vuoi tu, e quando tocco palla fammi bubù. Perché c'è un po' di razzismo da quelle parti, Dario? Ma devo dire che ancora ci manca, probabilmente in questo mondiale ci sarà un po' di tutto, quindi aspettiamoci pure un po' di razzismo. Al momento direi quello che è in quota nella società brasiliana, che è nelle sue contraddizioni, diciamo. Ancora nello specifico non ci abbiamo avuto degli episodi particolari, ma insomma non credo che questo mondiale ci farà mancare anche una spolveratina di razzismo. Ma certo, c'è sempre di tutto. Senti, so che tu mangi spolverate di formaggio invece lì, in questo minuto che ci rimane, no? Mi sembra che la cucina locale sia un po'... No, abbiamo parlato anche un po' fuori onda della temibile dieta brasiliana. Poi la dieta del giornalista è pericolosissima, perché tu fai se ti stanchi, ma in realtà non muovi mai, perché o sei in macchina o fai spostamenti minimi. E quale ti è tante, poi magari una sera ci dedichiamo proprio ad approfondire i temi gastronomici, ma uno degli insidi maggiori è il pan de queso, sono questi praticamente questi polpettine, diciamo questi tondini di formaggio fritto che qua mangiano come popcorn, però non con colesterolo, colesterolo alle stelle. Dario Ricci, non li mangiare, sì. Noi ci dobbiamo lasciare, mi raccomando, tieni in forma. Dai, per domani un paio me li mangio. Ciao Dario, a dopo.